mio intervento porterà le stimmate di un raffreddore contro il quale le medicine che ho sinora assunto hanno combattuto guerre e battaglie di Pirro. Quando 3 anni fa decidemmo insieme a Monsignor Roger, a Monsignor Zani, ai professori Zucal e Menestrina di organizzare questo convegno, eravamo consapevoli di intraprendere una scommessa rischiosa. Noi partivamo da alcuni dati di cui eravamo molto certi, che il tema avesse un potere fascinatorio per l'uomo contemporaneo, fosse un tema cioè molto palatabile, cioè che l'uomo contemporaneo fosse ormai stanco di questa marmellata linguistica che gli colava addosso, di queste parole fallite e fantasmatiche, di queste parole piene di rughe, di queste parole zombie, di queste parole appunto fallimentari che avevano fatto bancarotta. Partivamo da questo dato di fatto e nello stesso tempo volevamo fare un convegno che non fosse, come capita spesso in tanti convegni, una celebrazione dei defunti. Volevamo cioè, per usare un'espressione nicciana, che non fossero per i relatori e gli intervenuti e per coloro che l'avessero letto una vita tra feretri e segatura. E penso che sia stata una scommessa dalla quale siamo usciti vincitori. Non lo dico io che l'ho organizzato insieme al professor Zucal e all'Istituto di Scienze Religiose di Trento, lo dicono i recensori autorevoli, da Mondin a Vannini, lo dice il pubblico che sta acquistando, mi diceva l'editore Minelli, il libro in modo inaspettato, ha incontrato un favore di pubblico insolito per un volume di atti. In genere i volumi di atti vengono acquistati solo da biblioteche e rimangono non letti. In realtà questo è un libro che comincia a circolare, che ha incontrato il favore del mercato. E questo è indice che come avevamo strutturato il convegno, ecco, l'avevamo strutturato in modo adeguato alla sensibilità culturale del pubblico. Eravamo andati incontro a certe attese spirituali e culturali. Avevamo voluto un convegno multidisciplinare, interdisciplinare. Avevamo voluto semiologi e teologi, storici e biblisti, filosofi e liturgisti intorno ad un tavolo, per dibattere sul rapporto che intercorre, complesso e drammatico, tra silenzio e parola. La scommessa, vi dicevo, è riuscita per tutti gli intervenuti ed è riuscita anche questa nostra serata conclusiva, i 2 interventi che abbiamo avuto del professor Micheletti e di Enzo Bianchi, sono 2 interventi che hanno mostrato la ricchezza contenuta nei volumi ed hanno portato un ulteriore importante contributo. Quindi un ringraziamento va agli organizzatori, a coloro che hanno pubblicato i loro saggi, all'Istituto di Scienze Religiose di Trento, agli oratori di stasera e anche a voi che ci avete ascoltato attentamente, con grande attenzione, per più di 2 ore. Grazie.